طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا القانون. بونجورنو فلسطين، 148esima trasmissione su Radio UOM. L'informazione è la merce più preziosa e nello stesso tempo più inquinata dei nostri tempi, in particolare per quanto riguarda la Palestina. Dedichiamo allora alla qualità dell'informazione sulla Palestina anche questa edizione, trasmettendo la seconda parte dell'intervento del giornalista Raffaele Oriani, intervento già iniziato nella trasmissione precedente. L'informazione sulla Palestina è oggetto di vivo interesse tra i giovani e a questo proposito proseguono le iniziative verso le scuole da parte delle associazioni aderenti a Firenze per la Palestina, a fronte di un'informazione parziale e distorta fornita dai media e dalle iniziative governative cosiddette di contrasto all'antisemitismo, ma di fatto volte al sostegno di Israele e del sionismo. Invitiamo quindi i nostri ascoltatori a proporre e promuovere sul tema della Palestina assemblee studentesche nel corso di forum e occupazioni e a scriverci per prendere contatti con noi. È in una di queste occasioni al Cinema Teatro Pecci di Prato il 26 febbraio, in una affollatissima serata di pubblico con interventi e collegamenti da Gerusalemme, dopo la proiezione del film Erasmus a Gaza, abbiamo incontrato Ali Rashid, figlio di profughi palestinesi di Gerusalemme, che dal 1987 è stato primo segretario della Delegazione Generale Palestinese in Italia. In un'intervista ci parla delle iniziative da lui promosse recentemente in Toscana, il Diwan, una goccia per Gaza, al Teatro Instabile di Firenze. Ci parla anche di una mostra di fotografie dei bambini di Gaza. Il 20 febbraio, al Circolo Via Nuove a Firenze, Tina Marinari ha presentato l'ultima indagine di Amnesty International, formulata nel 2024 su Gaza. Dal titolo «Ti senti come se fossi un subumano, il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza». Potrete accedere al documento integrale in inglese e al compendio in italiano al link che trovate sulla pagina del blog della trasmissione di oggi. Sul sito di Amnesty International, inoltre, potrete trovare molti appelli da firmare che riguardano la Palestina. E tra questi c'è anche quello di due giornalisti palestinesi scomparsi subito dopo il 7 ottobre del 2023. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo la rassegna stampa con un articolo di Max Blumenthal pubblicato su Grayson e rilanciato dall'antidiplomatico dal titolo «Propaganda ufficiale sull'uccisione degli ostaggi. La famiglia Bibas minaccia di citare in giudizio il governo israeliano». La famiglia Bibas ha fatto sapere tramite i suoi avvocati di voler citare in giudizio alcuni ministri del governo di Netanyahu per le continue richieste di informazioni a scopo propagandistico che riceve sui corpi di Shiri e dei figli piccoli Kfir e Ariel, uccisi dai bombardamenti israeliani insieme ai loro rapitori. I corpi dei tre componenti della famiglia sono rientrati in Israele in seguito allo scambio di prigionieri previsti dall'accordo con Hamas il 18 febbraio. La famiglia Bibas accusa anche il medico forense dottor Chen Kugel di aver tentato di violare il segreto medico divulgando ripetutamente dettagli della morte dei loro cari senza il permesso della famiglia. Tra l'altro, il dottor Chen Kugel non è nuovo a questo tipo di distorsione della realtà. Infatti, già dopo il 7 ottobre era già al lavoro per propagandare il mito dei bambini decapitati che Israele ha sfruttato a piene mani per creare consenso e giustificare il genocidio. In passato poi, sempre il dottor Kugel ha protetto quei pochi soldati israeliani citati in giudizio per aver ucciso dei palestinesi, facendo affermazioni che hanno poi scagionato o alleggerito in maniera vergognosa le pene inflitte ai suddetti soldati. Veniamo all'articolo pubblicato su Palestine Chronicle dal titolo Hamas. Israele non ha altra scelta che iniziare la seconda fase dei negoziati. In questo articolo si sottolinea come il tentativo di Israele di ostacolare e fare marcia indietro sugli accordi di cessate il fuoco per quanto riguarda la seconda fase che è in corso non fa altro che prolungare la sofferenza dei prigionieri e delle loro famiglie. Hamas ha ribadito che l'unico modo per garantire il rilascio dei prigionieri è impegnarsi a rispettare l'accordo e impegnarsi in negoziati seri. Il portavoce di Hamas, Al-Qanun, ha affermato che nonostante lo scambio di prigionieri fino ad ora sia avvenuto nel rispetto degli accordi, a tutt'oggi non è pervenuta alcuna proposta riguardo alla seconda fase dell'accordo. Nell'articolo pubblicato su Internazionale dal titolo «L'esercito israeliano riconosce il fallimento totale del 7 ottobre 2023», si porta a conoscenza di una inchiesta interna all'IDF che ha riconosciuto il fallimento totale dell'esercito israeliano nel prevenire l'attacco del 7 ottobre, come ha dichiarato un funzionario militare che ha deciso di restare anonimo. Dall'inchiesta emerge come il fallimento abbia coinvolto anche l'intelligence, che aveva sottovalutato alcuni segnali e informazioni, secondo i quali Hamas si stava preparando a lanciare un grande attacco. In un videomessaggio trasmesso poco dopo la pubblicazione dei risultati dell'inchiesta, il generale Herzi Halevi, capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, si è assunto la piena responsabilità dell'attacco del 7 ottobre. Le sue dimissioni, annunciate a gennaio, diventeranno effettive il 6 marzo. Veniamo all'ultimo articolo pubblicato da Palestine Chronicle e rilanciato dal sito di Assopace Palestina dal titolo «Tattiche di tipo mafioso, Francesca Albanese racconta le intimidazioni e le molestie tedesche», in cui si sottolinea il clima politico davvero pesante che si respira in Germania, come riportato dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina occupata, Francesca Albanese, che qualche giorno fa si è vista spostare per ben due volte un evento che doveva tenere all'Università di Berlino e che ha tenuto poi in sedi più piccole, a seguito di intense pressioni, sia politiche che da parte dell'ambasciatore israeliano. Ha rivelato di aver subito minacce di arresto, molestie ed intimidazioni da parte delle autorità tedesche per aver parlato del genocidio israeliano e del colonialismo di insediamento. Ha aggiunto di aver evitato la detenzione solo grazie alla sua immunità diplomatica come funzionario delle Nazioni Unite. Francesca Albanese ha affermato che le autorità tedesche hanno utilizzato tattiche di tipo mafioso, mandando in giro la polizia ad intimidire le sedi e gli organizzatori dove si doveva tenere l'evento. ha concluso dicendo che il risultato di questo clima pesante che si respira in Germania è che oggi nessuno, società civile, organizzazioni per i diritti umani e accademici, vuole parlare di Palestina. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. Ripartiamo ora con la seconda parte dell'intervista a Raffaele Oriani, che nel 2024 ha pubblicato il libro La scorta mediatica, come la grande stampa ha accompagnato il massacro e perché me ne sono tirato fuori, il libro edito da People Storie. Raffaele Oriani è il giornalista che è stato caporedattore di Io Donna del Corriere della Sera e collaboratore del Venerdì di Repubblica, fino alla scelta di tirarsi fuori da questa stampa che per 15 mesi e tuttora fa da scorta mediatica al genocidio di Israele a Gaza, Cisgiordania e in tutta la Palestina. Raffaele Oriani ha scritto reportage per una quarantina di paesi, tra cui Pompei, Scene da un patrimonio, A Nord, Volti e storie del tetto d'Europa, edito dagli editori riuniti, e I cinesi non muoiono mai. Nel 2024 a Raffaele Oriani è stato assegnato il premio Stefano Chiarini. Ascoltiamo ora la seconda parte dell'intervista. Mancate di far parte della scorta mediatica. In Inghilterra, ad esempio, ci sono stati dei giornalisti della BBC che, anche se in forma anonima, hanno denunciato il fatto di subire delle pressioni per evitare determinate parole oppure comunque continuare a raccontare la versione israeliana e basta. Questa è la domanda. Sì, da noi effettivamente poco. No? Non che non ci siano i colleghi che riescono... Non sappiamo il prezzo di quali insistenze, di quali sforzi, di quale impegno a in qualche modo fare dare dei contributi importanti. Per esempio la RAI ha dei colleghi che lavorano, che hanno fatto lavori importanti, per esempio sulla Cisgiordania. Certo, non vengono trasmessi nei TG principali, non vengono trasmessi nei momenti in cui si forma l'opinione pubblica, no? Hanno sempre una collocazione in qualche modo marginale. Ci sono anche nei giornali colleghi che hanno cercato, inviati, in cui si vedeva, articoli da cui si vedeva che cercava di far passare la drammaticità degli eventi e del momento. Il punto non credo siano tanto il contributo dei singoli giornalisti, quando proprio dell'impostazione dei media, dell'impaginazione delle notizie, dei titoli che vengono dati, dell'importanza della gerarchia delle notizie, del fatto che fino proprio nei dettagli minori viene sempre in qualche modo favorita una narrazione rispetto ad un'altra. Vediamo per esempio quella vicenda anche del rilascio degli ostaggi in questi giorni, come è stata raccontata, no? All'insegna di una continua svalutazione dell'esperienza e della vita palestinese. Quello che secondo me è mancato, ma è mancato perché non c'è stata la lettura che ho dato io, purtroppo, ovviamente io penso sia quella corretta, ma molti colleghi non hanno sentito, al di là dei soliti mugugni di redazione che accompagnano qualsiasi tipo di notizia che viene pubblicata, ma non si è sentita la straordinarietà del momento, la drammaticità straordinaria di questo momento, cioè di un paese nostro fratello, alleato, praticamente noi, che sta compiendo uno sterminio, una cosa completamente diversa da raccontare una guerra che riguarda paesi terzi, che non siamo noi, di cui si fa dovere di cronaca, ma che in qualche modo non ci riguardano. Questa è una storia che ci riguarda, che dalle redazioni dei giornali finisce sul campo e dal campo finisce nelle redazioni dei giornali, perché con Israele abbiamo infiniti rapporti commerciali, politici, culturali, familiari, sociali, infiniti rapporti. Cioè, è il nostro mondo schierato lì, non si è capito che è il nostro mondo che torna dov'era, cioè torna dov'era le pratiche genocidarie che erano abituali 100-150 anni fa. Pensiamo alle guerre coloniali in Africa, insomma, pensiamo a tutta la storia genocidaria dell'Occidente. Non si è capito che in qualche modo era una ricaduta di un male che ci appartiene, e non si è presidiata la linea che impedisce di fare questo passo. Dove secondo me è mancata veramente la categoria, la mia categoria, e a parte un discorso a parte andrebbe fatto per le grandi firme. Le grandi firme hanno ognuno la responsabilità della propria firma, e lì se uno manca, manca in prima persona, non è al di là dei redattori, di chi fa le cronache. Le grandi firme, i grandi rubrichisti, i grandi editorialisti, quelli rispondono in prima persona, non rispondono dietro la testata del giornale. Abbiamo avuto editoriali del Corriere della Sera che non solo hanno fatto l'apologia per in qualche modo trarre d'impaccio Israele, non hanno solo fatto l'apologia della guerra, ma hanno fatto l'apologia diretta del crimine di guerra. Crimine di guerra in quanto connaturato all'esperienza dell'Occidente, connaturato all'esperienza storica dell'Occidente, e quindi che ha pienamente cittadinanza anche quando lo compie Israele, questo per irridere e svalutare tutto lo sforzo del diritto internazionale, in qualche modo di chiedere conto di quello che succedeva. Ma dicevo, a parte le grandi firme, e ci sono stati degli esempi veramente di tracollo etico e deontologico da questo punto di vista, quello che è mancato secondo me sono stati i collettivi di giornalisti, cioè proprio l'idea di sentire la forza di una categoria che in qualche modo doveva imporre dei paletti, non imporre evidentemente una precisa narrazione, ma dei paletti sì, cioè quando non si può raccontare la distruzione di un ospedale come se si raccontasse un campo di battaglia, perché un ospedale non è un campo di battaglia, un ospedale è un ospedale. Allora come è possibile che se un obiettivo legittimo? Questa è stata una cosa veramente per me scioccante, e devo dire scioccante un po' per tutta la stampa, ma in particolare per Repubblica, il mondo di Repubblica dove io lavoravo. Io ricordo a ridosso del 25 aprile dell'anno scorso pagine e pagine di polemica sulla necessità di tenere vivo il ricordo del fascismo e dell'antifascismo, pagine di polemica perché Scurati, Antonio Scurati, lo scrittore, era stato censurato in televisione. Negli stessi giorni venivano scoperte attorno all'ospedale a Shifa, a Gaza, fosse comuni orribili, con centinaia di corpi sepolti, addirittura bambini, addirittura malati ancora con le attrezzature addosso, addirittura gente che dava tutta l'impressione di essere stata sepolta viva, non una parola, non un commento, non una rubrica, niente, nulla, passato come se fosse la descrizione di un incidente stradale. Ma allora dico, ma come puoi anche solo nominare l'antifascismo se quando c'è il fascismo davanti ti giri dall'altra parte? Quindi sì, il bilancio è abbastanza sconfortante, e credo che alla lunga in futuro sarà visto con molta più severità di quanto lo vediamo adesso. Devo dire, permettimi solo questa nota brevissima, che da quello che dico può sembrare fallimentare anche il bilancio mio personale di aver fatto questo gesto che poi non ha portato nulla, ma io credo che quest'anno e mezzo sia stato fondamentale che il mio gesto, come migliaia di altri gesti, hanno un pubbliscolo di gesti, in qualche modo ha creato quell'atmosfera che ha impedito la definitiva normalizzazione di tutto questo, perché l'obiettivo era veramente di farlo passare come se fosse un evento che va in sequenza con tanti altri eventi. E l'impegno, la dedizione, anche devo dire la sfiancante attività, insomma, che in tanti abbiamo compiuto in quest'anno, ha impedito che tutto questo si compisse e che il cerchio in qualche modo si chiudesse. Infatti, insomma, il motivo per cui ci impegniamo quotidianamente anche proprio continuare questo intento qui. E per quanto riguarda il discorso che facevi sulla responsabilità delle grandi firme, ad esempio, mi viene in mente che ultimamente c'è stata proprio un'escalation del tipo di linguaggio utilizzato. Ad esempio, ora dopo, in seguito all'elezione di Trump, non ci sono più neanche tentativi per mascherare proprio l'intento criminale legato a proprio la volontà di compiere pulizia etnica, esproprio della terra, eccetera, eccetera. E mi viene in mente l'editoriale di qualche giorno fa di Molinari, dove appunto definisce queste esternazioni di Trump come uno stile di pensiero out of the box, per dire, no? Quindi c'è proprio uno sdoganamento di un tipo di linguaggio diverso e più violento, oltre al fatto che nessuno ha seguito il tuo esempio di un anno fa. E come se aumentasse lo scollamento tra il linguaggio giornalistico e il linguaggio della scorta mediatica e invece l'attivismo dal basso e quello che pensano le persone che sono informate dei fatti. Cosa ne pensi poi? Questo è vero, e quell'editoriale di Molinari fa paura, come tante cose che ha scritto in questi mesi, però io credo che Trump, non so, io credo che l'abbinamento, appoggiandosi così tanto a Trump, adesso permettetemi una lettura meno mediatica, più così politica, insomma, di solito mi guardo bene da esprimermi in questo senso, ma insomma mi è venuta così, insomma, da come mi hai posto la domanda. Io non so se è un investimento molto, se sarà un grande investimento per Israele essersi appoggiato a Trump in questa maniera, perché Trump in qualche modo fa capire con la sua rozzezza, con la sua chiarezza, con la sua brutalità, fa capire anche rispetto a noi qual è la posta in gioco, cioè aver tollerato questa violenza per tanto tempo, aver tollerato questo tasso di crimini per tanto tempo, aver normalizzato così tanto orrore per tanto tempo, alla fine ci porta da un'altra parte anche a noi, ecco, non solamente ai palestinesi, ci porta in qualche modo a capire che a gestire questa violenza, questo orrore, il sistema politico migliore non è la democrazia, è qualcosa di diverso, è qualcosa che è incarnato da Trump, è incarnato da tanti altri leader che non è detto che non verranno, perché quando si tollerano certi passaggi, come dire, tracolli di civiltà, poi evidentemente la cosa ha un effetto di contagio, per cui io spero che proprio l'irruzione di Trump, con i suoi modi così indigeribili per tanta cultura democratica, che invece ha accettato lo sterminio di Israele con grande leggerezza, credo che farà riflettere sul fatto che stiamo andando in una direzione veramente paurosa, non solamente in Medio Oriente, ma un po' anche in tutto l'Occidente, e quindi forse farà in qualche modo di riportare un po' di razionalità anche sulla vicenda medio orientale, nel senso che Trump è più facile da criticare di quanto lo sia stato Israele e lo stesso Netanyahu, e in qualche modo porta il tutto a un livello di chiarezza, di di brutalità a cui, che invece era sempre stato in qualche modo nascosto, mimetizzato, no, nei mesi seguenti. Quindi non è detto che non porti paradossalmente anche qualcosa di buono, una reazione, provochi in sostanza una reazione da parte di ambienti che invece fino adesso sono stati molto, molto, molto accomodanti. Speriamo, insomma. Permettimi l'ultima domanda, che riguarda un altro argomento. Appunto, dall'inizio dell'ultima offensiva di Gaza, anche noi come attivisti ci siamo sentiti criminalizzare con la facile accusa di antisemitismo per il solo fatto di criticare le azioni criminali di Israele. Cosa ne pensi di come viene strumentalizzato questo termine, come viene usata questa accusa per zittire i movimenti pacifisti? Sì, è stato veramente, veramente grave mettere in campo questa parola con questa insistenza, con questo atteggiamento sempre ricattatorio, questo atteggiamento sempre in qualche modo violento. Se pensiamo, come dicevo prima, non c'è stata narrazione su Gaza, mai un giudizio, mai niente, mai un aggettivo, è stato uno stadio che è passato proprio tutto di fatti, senza mai una evidenziare nulla. Ecco, l'unica narrazione che è stata fatta in questi mesi è stata fatta su chi invece protestava contro lo sterminio, per cui quelli erano antisemiti, quelli hanno radici nella cultura di questo e di quell'altro, quelli poi ogni parola che dicono solo invece intendono cose peggiori, si cantava guai a cantare quella canzone, guai a dire quello slogan, guai a tirare fuori quella bandiera, guai. Sempre tutto un reticolo di in qualche modo di allarmi sociali attorno a chi protestava contro lo stabilo, dove invece lo stabilo non suscitava nessun allarme. È stato veramente uno spettacolo indecente e indecente anche perché come dire, il nostro ebraismo ufficiale in Italia è stato purtroppo schieratissimo con le ragioni di Israele, ma nel giro in tutto il mondo, anche in Italia, ma soprattutto in America, soprattutto in Francia, in Germania, in Inghilterra, non è che ci sono decine, ci sono centinaia, ci sono migliaia di ebrei che guardano alle cose di Gaza esattamente come la stiamo guardando noi che siamo in questa sala adesso, cioè che provano tutto l'orrore possibile per quello che succede a Gaza, che non sanno come dire che questa cosa non li rappresenta minimamente. Io guarda, si potrebbero fare tantissimi, tantissimi esempi, e comunque è da rilevare anche qui la funzione della stampa, che ha avuto la funzione di fomentare l'antisemitismo, che per fortuna attacca poco, ma hanno fatto in tutti i modi per fomentare, presentando gli ebrei come se fossero una schiera unita dietro alle bombe. È una menzogna totale, palese. Appena un ebreo parlava non contro, non criticava Netanyahu come piace a loro, ma era inorridito dal genocidio, spariva dal circuito mediatico. Io penso a Repubblica, penso a due nomi che sono stati presentissimi negli ultimi anni o addirittura decenni su Repubblica, che come si sono espressi senza nessuna sfumatura, senza nessuna esitazione contro lo sterminio, sono spariti completamente. Uno è il sociologo francese Edgar Morin, ebreo sefardita di 104 anni, che è una delle colonne portanti dell'editorialismo di Repubblica, completamente sparito perché con la sua voce claudicante di centenario ha detto in tutti i modi che questa cosa ha espresso in tutti i modi l'orrore per quello che avviene a Gaza. E il secondo nome che mi viene in mente è Naomi Klein, anche lei una dei pari del pensiero progressista degli ultimi 20 anni. Siccome si è schierata al 100% contro quello che sta succedendo a Gaza, fanno un discorso interessantissimo, profondissimo sul sionismo e l'ebraismo, tra l'altro proprio alla Columbia University, che veniva raccontata dai nostri giornali come un covo di antisemiti nei giorni stessi in cui Naomi Klein era lì, lei ebrea canadese, era lì a portare il suo sostegno e a entrare in dialogo con con i ragazzi che facevano le serie di Pasqua ebraica, invitando a guardare dei momenti meravigliosi che ovviamente i nostri giornali si sono guardati bene da raccontare, perché l'unica immagine che doveva essere proiettata era che c'erano gli ebrei da una parte con le bombe e tutti gli altri dall'altra. Questa cosa ha fatto dei danni enormi, enormi. Per fortuna credo che la nostra società sia oggi come oggi abbastanza vaccinata contro pulsioni irrazionali antisemite che ci siamo lasciati alle spalle e sia in grado di distinguere, di selezionare, di razionalmente analizzare. Faccio ancora un ultimo nome perché è una cosa a cui tengo molto, una cosa che a me ha fatto molta impressione. C'è stata tutta una... a Gaza non ci sono stati giornalisti internazionali, ma ci sono stati giornalisti palestinesi e ci sono state un altro tipo di voci terze, e sono stati i medici che hanno potuto fare, che hanno voluto fare i volontari negli ospedali della Striscia. Il primo medico che una volta tornato dalla Striscia, in varie interviste con media americani, ha detto chiaramente quello che aveva visto, facendo un'impressione enorme, non ha più smesso di parlare perché ha capito che era una voce insostituibile, raccontando di queste decine e centinaia di bambini con un foro in fronte e un foro al petto che arrivavano in sala operatoria e non sapeva come salvarli, intendo bambini deliberatamente colpiti da cecchini israeliani. Il primo medico si chiama Mark Perlmutter, è un chirurgo ortopedico ebreo-americano che tra l'altro ha operato nella Striscia, perché ovviamente io ci sono stato tantissimi anni fa a Gaza e gli ho chiesto alle persone con cui parlavo, ho avuto modo di chiedergli, ma se io come giornalista fossi ebreo potrei lavorare qui? Potrei venire qua e farvi parlare con voi, farle l'intervista? Loro mi hanno detto chiaramente, guarda, a noi interessa, sei per l'occupazione, sei contro l'occupazione. Se sei contro l'occupazione sei un nemico, se sei per l'occupazione sei un nemico, se sei contro l'occupazione sei nostro fratello, qualsiasi cosa tu sia. Questo medico ebreo ha lavorato nella Striscia per un mese durante i bombardamenti, ha cercato di salvare più vite possibili, è tornato a casa in America e ha fatto il suo racconto. Sulla nostra stampa non è uscita una parola, zero, nulla di nulla, ma non sarebbe stato più utile, invece di tanti sermoni astratti, non sarebbe stato più utile per combattere l'antisemitismo strisciante o residuo che c'è, presentare un medico ebreo che va lì a salvare i suoi fratelli palestinesi a rischio della vita. Di tutto questo non c'è stata una riga sui nostri grandi giornali. Anche questa è una responsabilità enorme che si sono assunti. Yeah. فكرة يا أستاذ ويا معلم في بعصاي ما بنفهم فكرة لا تحاولوها سجن مدرستي حلو تكون المدرسة أسرة لا تحاولوها سجن مدرستي حلو تكون المدرسة E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Avete ascoltato ora Raffaele Oriani a proposito dell'informazione sulla Palestina. Parleremo ora invece con Ali Rashid. Ali Rashid, figlio di profughi palestinesi di Gerusalemme, dal 1987 è stato primo segretario della Delegazione Generale Palestinese in Italia. Ha studiato in Italia, militato prima nel movimento studentesco e poi ha fatto parte di Democrazia Proletaria e dell'Unione Generale degli Scrittori e Giornalisti Palestinesi. È stato eletto nelle liste di Rifondazione Comunista, parlamentare dal 2006 al 2008 e membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Attualmente è impegnato in iniziative per la cessazione del conflitto armato in Palestina e per la conclusione della controversia nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle risoluzioni dell'ONU. A Firenze è stato animatore dell'iniziativa del Diwan, Una goccia per Gaza. Incontri domenicali presso il Teatro Instabile di Firenze e di questo ci parlerà nell'intervista. Allora, buonasera Rashid, siamo qui al Teatro Pecci, anzi al cinema, e abbiamo finito di vedere il film Erasmus a Gaza. E approfittiamo dell'occasione per farti qualche domanda. E allora, iniziamo subito con la tua attività che hai avuto di recente fino adesso con il teatro, appunto, il Diwan. Ho detto anche da noi Teatro Tenda, come molto interessante, anzi quello, diciamo, l'esordio è stato proprio con questo film, con Erasmus a Gaza, mi ricordo, sono stato anch'io. Assolutamente, è importante perché è per dare un po' di informazione vera su quello che avviene in Palestina, con testimonianze, anche per contrastare una versione ufficiale dell'informazione in generale, ma anche in Italia in modo particolare, che nasconde le cose, che disinforma e non informa. Come un piccolo popolo con le nostre capacità, possibilità molto limitate, non abbiamo altri mesi se non l'incontro con la gente, parlare guardandoci negli occhi, appunto come si fa nel Diwan. È il Diwan, è il luogo dove la gente si incontra e parla. Purtroppo alla politica in generale manca il luogo di incontro, quindi siamo tutti sotto dei mesi di informazione ufficiali che rispondono a, non all'esigenza di dire la verità, ma di formare l'opinione pubblica secondo certi criteri, certi obiettivi. Ecco, una domanda. In queste sessioni tu hai rilevato un particolare interesse da parte del pubblico, cioè in generale il pubblico non fa molte domande, ma in questo caso come si è comportato il pubblico? Si è comportato benissimo, ma delle volte anche gli organizzatori non danno spazio per l'intervento del pubblico. Esatto. E il Diwan prevede proprio il contrario, che tutti parlano, che ognuno cerca di esporre il suo punto di vista. È così che si forma in modo collettivo una nuova coscienza attraverso le varie punti di vista che si incontrano, attraverso il dibattito. E devo dire il fatto che il Diwan ha una scadenza mensile costante è diventato anche un'abitudine per la gente, che quel giorno c'è il Diwan e quindi la gente ritorna e col tempo cresce sempre di più. Ecco, età dei partecipanti, hai notato differenze da un Diwan all'altro oppure in generale media di partecipazione, che tipo di età? E qui vengono fuori i limiti, quando c'è il personaggio importante c'è più gente e quindi sempre c'è il nome della persona che attira maggiore attenzione. E l'età abbiamo constatato non la mancanza di giovani, però una piccola percentuale rispetto al totale della presenza e forse bisogna inventare qualcosa per attirare anche l'attenzione dei giovani. Noi facciamo anche di solito un video, il dibattito e poi un concerto. Forse dobbiamo dare maggiore attenzione al tipo di concerto che si fa. Un po' più, qualcosa più per i giovani. Qualcosa di più per i giovani, sì. Io ti volevo chiedere appunto per il discorso della stampa, i media, appunto sappiamo benissimo, è uscito anche il famoso libro di Oriani su cui appunto la scorta mediatica ha fatto un grande lavoro purtroppo contro la Palestina e a favore di Israele. Come pensi si possa, diciamo, cambiare questo? Invitare, penso, no, ora io lo dico così, invitare la gente a non comprare più per esempio il Corriere della Sera e la Repubblica, questo metterli nella lista del BDS, ma un'altra, diciamo, un'alternativa culturale sulla Palestina, con che mezzi di diffusione la vedresti, oltre appunto a quelle attività che... No, ma in particolare hai delle nuove attività adesso che proponi, si è parlato di una mostra, allora ecco, di che mostra si tratterebbe? Innanzitutto bisogna dire che a noi toccato è la stessa sorte, condizione di tutti i popoli che hanno perso. Hanno perso soprattutto la possibilità di dire il loro punto di vista e sono stati raccontati sempre dagli altri. Questo non riguarda soltanto i palestinesi, ma riguarda tutti i popoli che in qualche modo sono stati dominati, occupati, massacrati. E fino a pochi tempi, anni fa, tutti immaginiamo che i cattivi erano gli indiani d'America, che erano di vittime per eccellenza. E pensando a questo mi vengono i brividi, perché di fronte a quello che dichiara il governo israeliano, ma non solo il governo israeliano, anche il presidente Trump, le sorte dei palestinesi si dipendessero dalle loro parole e dalle loro decisioni, siamo già condannati. E noi per contrastare questo con i pochi mezzi che abbiamo fatto, oltre al Diwan, oltre all'incontro di questa sera che vedo tantissima gente, pieno il teatro, ma abbiamo fatto anche la mostra fotografica, si chiama Gaza fuori fuoco. Gaza fuori fuoco con fotografi palestinesi di Gaza, sfortunatamente molti di loro non ci sono più. Anche perché i fotografi, i giornalisti sono stati degli obiettivi mirati per Israele. Una piccola striscia di terra dove non è che ci sono molti mezzi di informazione, però uccidere quasi 135 giornalisti è una cifra enorme questo. Ma questo dimostra anche il fatto, e come disse Trump nella sua prima dichiarazione, ma cosa state facendo? Il mondo sta guardando, finite subito il lavoro. Cioè non è che fermatevi, no, finitelo subito. E quindi disinformare, non informare, è un obiettivo. Sì, certo, e noi con i pochi mezzi che abbiamo, con la buona volontà, con la generosità di molti amici, di molte donne o uomini che fanno il volontariato, che si spendono per la pace, per il diritto internazionale, per l'umanità, e riusciamo a filtrare delle volte qualche parola. Dunque, quindi abbiamo le nostre presenze e le nostre voci. Ecco, a questo proposito, tu nelle tue esperienze vai anche in scuole, hai esperienze con giovani a livello scolastico, universitario? Certo, io ho partecipato a molti dibattiti l'anno scorso, quando c'era questa ribellione, questo movimento nelle università, che era una cosa molto bella, e con un'attenzione straordinaria, anche perché sono giovani che studiano, che leggono, e sono liberi da pregiudizio, anche perché non sono stati martellati per tutta la loro vita da una certa propaganda. E quindi sì, sono stato anche in diverse scuole. Domani mattina sono a una scuola qui a Prato, c'è un incontro con gli studenti e cercherò di spiegare cos'è questa questione palestinese, cos'è questo conflitto, cos'è questa guerra che non è guerra ma un genocidio. Però rispetto all'altra parte, i nostri mezzi sono molto molto molto piccoli e spesso inadeguati. Sì, su questo concordiamo, che i mezzi sono, però effettivamente noi abbiamo anche delle speranze. Noi facciamo, come adesso Pace Palestina e altre organizzazioni, facciamo sempre manifestazioni domeniche, sabati, e cerchiamo di comunque sia di informare. Però è vero appunto che l'informazione sembra essere aver preso il sopravvento, specialmente in Italia, si deve dire, soprattutto in Italia, questo discorso della disinformazione su quello che è questo conflitto, che non è un conflitto, perché non ci sono due eserciti che si stanno combattendo o si erano combattuti. Anche il fatto di credere che Hamas fosse solo un piccolo nucleo militare, in realtà non è così. Ecco, tu cosa pensi riguardo appunto a questa, come diciamo si può cambiare, ecco, la narrazione? Non abbiamo alternativa di non quello di continuare a parlare, essere ambasciatori, trasmettere le nostre testimonianze, la verità che abbiamo toccato con mano. E quindi la gratitudine dei palestinesi rispetto a queste associazioni, a voi in modo particolare, è infinita, infinita. Davvero siamo grati, vi ringraziamo, siete la nostra voce. Però io mi rendo conto che è il compito difficile, forse la cosa è più semplice da dire è quello di fare il boicottaggio a Repubblica, Corriere della Sera e molti altri mezzi di informazione, anche La Nazione qui, insomma, che è schierata completamente dall'altra parte, anche come proprietà. Faremo del nostro meglio, utilizzeremo al meglio strumenti che possiamo avere. E qua io volevo dirti una cosa: tu ringrazi noi, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare voi, perché oggi la Palestina rappresenta per noi un baluardo e un simbolo. Attualmente sul piano militare è perdente, è perdente da tanti punti di vista, ma per noi però rappresenta i valori. Quelli che il mondo sta perdendo, noi li ritroviamo nella Palestina. e riguardo anche alla la pochezza delle nostre forze, no? Lo sappiamo che siamo deboli e vediamo anche in molti nostri compagni una sfiducia perché dicono qui non riusciamo a incidere abbastanza. È vero, siamo deboli sul piano dei mezzi, ma siamo molto forti sul piano delle ragioni e questo ci deve dare fiducia. E la determinazione dei palestinesi ci aiuta moltissimo. Io sono di nuovo grato per le parole che avete detto. A me fa onore, ma anche un po' orgoglio, fiero della resistenza che hanno posto, continuano a fare i palestinesi, malgrado le difficoltà, malgrado le tragedie, il dolore, la sofferenza, però sono determinati a non mollare la loro terra, di non svendere i loro diritti, continueranno a battersi per la loro libertà, autodeterminazione, e che Gaza e la Palestina, quella piccola terra martoriata, mette a nudo anche il diritto internazionale. Soprattutto cosa fa le Nazioni Unite? O legittimano le guerre, e quando gli convengono queste guerre, le lasciano andare, sbloccano qualsiasi iniziativa per porre fine alle tragedie, ai massacri. E sono anche rispetto a questa caduta in bassa del giornalismo italiano, che io lo conosco bene, non era così una volta, assolutamente non era così. E io dico che i giornalisti palestinesi, con tutte le difficoltà che ci sono, cercano con dignità a fare il loro lavoro, ma anche questo vale per i fotografi. E la sofferenza, insieme alle altre categorie, di loro è una sofferenza enorme. Hanno perso i loro cari, molti di loro sono stati uccisi, e infatti la mostra Gaza fuori fuoco vorrebbe dare anche degli aiuti economici alle famiglie dei fotografi, dei giornalisti che sono stati uccisi, e siamo riusciti a far arrivare i primi aiuti a loro. Bene, grazie. Grazie Rashid. E fortunati i ragazzi che domani ti ascolteranno. Grazie. Gli Yuan scorrevano le parole verso l'infinito, rispettose e cordiali si spogliavano dal piglio del dominio e si ammantavano dell'ansia di comunicare. Poeti, narratori e cantastorie lontani e vicini si alternavano sul palcoscenico che durava tutto l'anno. Passato, presente e futuro con filo ininterrotto per non smarrirci nel vuoto, per affermare o confutare una tesi. Protagoniste sono le parole che sfilano come la seta dai gelsi e lasciano indelebile il segno sul quaderno della notte. Solo il chiarore della mente a farci lume nella ascesa verso le nostre ardite deduzioni. Nel Diwan rinascerò da me stesso e sceglierò lettere capitali per il mio nome, in questo presente senza tempo e senza luogo. Ormai nessuno ricorda come abbiamo varcato l'indicibile e ci siamo accorti che non siamo più capaci di attenzione. Per non sentirci dire un giorno, era mio padre quell'uomo in pena da far sopportare a me la sua storia. Questa nostalgia che né l'oblio ci allontana né il ricordo ci avvicina, questa tensione verso l'altro che è in noi non si risolve nel soggetto pensante, quello che Marx in parole suggestive definisce il sogno di una cosa, il soggetto umano che attende il tempo che non c'è ancora. L'uomo inedito, uomo in tensione, verso il futuro, verso il suo adempimento per creare il futuro che non è più certezza, ma è una pura ipotesi. Il futuro ci sarà se lo avremo creato. Ali Rashid. يشف لي الطقس شمها قال لي السنين جاي هواك الخيال ويلي يا ريت لسرشت الفرس ولبعت هالمرسال سرشت الفرس ولبعت هالمرسال عرب وصحرا وغيبة يوم بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبح بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبح Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo adesso a parlare di Amnesty International. Il lavoro di ricerca di Amnesty International nel territorio palestinese occupato, Israele, non si è mai fermato. Dal rapporto sul crimine di apartheid contro la popolazione palestinese alle indagini e ricerche dal 7 ottobre 2023 in poi. Il loro ultimo rapporto ha il titolo «Ti senti come se fossi un subumano, il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza». Dalla sua pubblicazione il 5 dicembre 2024, questo rapporto è stato presentato a centinaia di persone in tutta Italia. A Firenze è stato presentato il 20 febbraio al Circolo Arci Vie Nuove. Potrete trovare il link sulla nostra pagina blog della trasmissione di oggi per leggere l'estratto in italiano del dossier. Qui troverete anche il link per firmare l'appello per ritrovare i due giornalisti palestinesi scomparsi, che sono Nidal al-Wahedi e Haitham Abdel-Wahed, due giornalisti di 25 e 31 anni che lavoravano per i canali indipendenti Ain Media e An-Najah, nella striscia di Gaza occupata. Entrambi sono stati arrestati dalle forze israeliane il 7 ottobre del 2023, mentre documentavano l'attacco guidato da Hamas in territorio israeliano. Da allora le autorità israeliane si rifiutano di rivelare il luogo in cui si trovano o le ragioni del loro arresto. Queste condizioni di detenzione equivalgono a una sparizione forzata. Nidal e Haitham sono ancora vivi? Perché sono stati arrestati? Firmate l'appello per chiedere alle autorità israeliane di rendere immediatamente noto dove si trovano e di garantire loro un trattamento umano e la possibilità di difendersi. Questa era la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 19 marzo, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. وحدي وطني صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو لا صفقة ضرب